calo. E beh, tu. E bello. Andiamo bene, andiamo. Che è? Andiamo bene, andiamo. Papà. Papà no. L'amicizia me l'ha accettata. E secondo te non te la posso accettare? Ma stai scherzando, sai? Non l'ho visto, vabbè, la notizia. Mi ha corto, mi. Qualcuno è di corto di Natalino. E dove è corto? A Facebook. Cappa cappa. Oh, io. È un coccomane. È vero. Coccomane, no? Sì. Me lo ricordo a corto. Te lo ricordi? Sì, sì. Andiamo, andiamo. Niente. E dove? Tintava di papitare in tedesco, tintava. Che Natalino? Ma c'è poco. Io mi metto solo una baraura, quando la dite mi fate pisciare le risate. Quando fate Raus! Dite che fa un bel ridere e fa adesso qua. Quando andato via a Bunia, alla femmina li fatia, ti dava un colpo e fatia Raus! Bello, sta a posto? Tutto a posto e niente oggi, mi dia chi. Ma stai salendo a casa del marito? Sì, sì. E domani forse vengono a prendersi la moto, uno scarabeo. Ah, è vero, ti stai prendendo lo scarabeo. Ma lo scarabeo non è lo scarabeo tuo quello? No, non è mio, quello è stato quello di Marina. 3,50. 350 euro? È buono, ma cos'è a miscela? Che è per te, però. Miscela torta. Già va bene. Ma guarda, io ho un amico che ce l'ha, minimo ce l'ha 20 anni. Sempre lui, Una di là, Don Pizzigno veniva distruggente, ha detto, tinnandi, gliela ripresa subito. Lui sempre perfetta quella moto, ce l'ha tuttora. È meglio così, tu gliela tieni conto. Sì, lo. No, è un tipo che ci tiene molto. Io va bene, no. Guarda, la conosco quella moto lì, secondo me va più di 20 anni, la conosco da quando sono entrato lì. Mi la via sempre, che la metteva nel magazzino dove. Cioè, dove l'altro magazzino dove c'avamo noi. È sempre perfetta, sempre perfetta. Conta le cose, le tieni conto, bene, altrimenti gaggio conto. E gaggio conto. Guarda, chi manda l'amicizia. No, guarda, non mi interessa. No, me ne frega proprio. Ora niente che ti sta un po' nebile. No. Non mi interessa bene, punto. Fai beh. Ah, ma come l'ho vista, ti ho accettato subito. Ma perché ti hanno bloccato un mese? Cos'hai detto? A che insulto hai mandato? Sì, ho scritto in bacheca. Io ragazzo. Ho scritto zingaro di merda, bravia voce a Ibrahimovic. La cazzo mi ha bloccato. Ma un mese, allucinante. Mi sei avvisato, dovrei prendere anche la denuncia, boh, brava. Posso anche mi bloccare, ma non ne pongo più, non rubo con Facebook. Sì, però non è giusto, ognuno può esprimere ciò che vuole. Non mi pare, ma già ti sbloccano. E sicuramente chi piazza a ghiccio. A me non è che mi piace tanto il suo personaggio, la verità. Beh, certo. Ma come convinto, State sempre, entra in campo, state sempre prendendo i beffi, state. Per la mania della forza. Scherza, personaggio. Grazie di comunato da Ugaco, Uga Posteggia. cosa hai detto? Ho detto si discute una giunta un gacco, un gacco. Una botteggia. Un cacacamura vi è cutto. Oh, ma con di gardena, chi so? Oh, io già. Guarda la pura che esce a tu. Ho capito. Da la pura che la esce. Alle 7:30. Tra la cos'erata si fanno le 8, no? Beh, purtroppo è quello il lavoro, cosa vai? Ma in bici vai? Qualche volta. Adesso no, questo periodo che piove no. Vabbè, oggi non l'ha piovuto. Così, buon piovigginato. Ma non la potevo usare perché... Ma se no già ando pure a piedi, non è che c'è un problema. E appena via Milano c'è un po' un po' innalzata. Sì, è la prima volta, A piedi? Cazzo! È la prima volta, non è molto lontano, no, da qua. Da Lattinozzi sì, ma dai Noghi no, non c'è problema. Da lì via Milano è un po' lontanuccio a piedi, No, no, dico di no, io qua ci sono andato un bel di volte. E me vuoi buoni 10 minuti o 4 d'ora arrivi? Se posso ci vuole, per le mie voci che mi faccio dai Noghi a da Usciano a piedi, un saraburo me. Che mi piace andare, cioè se ci avrà avuto è riuscito di più, a me mi piace, compreso. Qui va a dire un periodo, dal monte viene Porto Torres, viene Porto Torres, dove c'era Norvindros, ha fatto un bel po' di tempo a piedi. Sì, è bello. No, lui, anche a me piace, mi piace molto la verità, soprattutto quando scendo al mare, nei periodi dove non vado a bagno, cioè, mi piace passeggiare lì, mi piace, farmi anche un bel po' di cose a piedi, ma con ripiedi aria buona. Scendete in gioco di guru. Mi sta ricordando, da dove l'avevo fatta? Alla rotonda al secondo. Dalla rotonda al secondo ci siamo usciti a piedi, una volta. Ehi, vabbè, mi sei lontano, abbiamo fatto camminati con Marina. E facciamo un bel, corriamo anche in spiaggia, facciamo un bel pezzo tipo dalla Marina e ti faremo io, a tutti, qua c'è degli invici. Guarda, è una cosa troppo bella, a me mi piace un bel. Infatti non vengo ora che forse a bello tempo ma farà mini un poco. Perché Maria piace molto, ma a me già mi piace. A me già piace, a me meno si dice. A me piace. Però tanto giorno lì, mamma mia. Oh, pesante. Tu conta, noi alle 9 siamo già lì e andiamo via verso le 7:30. Quella lì è una vecchia storia. Una volta ci siamo usciti giù alla discoteca che ci hanno rotto le scatole che dovevi abbozzare la gravata, non so che cosa. Una serata un po' particolare, ci abbiamo voluto, abbiamo fatto dai no, dai chi da. Da giù via il portatore, se giù in fondo fino ad andare a Teloci a piedi. E io ho camminato un po' io. Ho voglia. A me già piace la verità in quella zona lì. Mi sento anziano, quasi più già. Sì, oioia. Sto combattendo con un computer, ma l'ho vinto io, l'ho sistemato. Solo che ha praticamente... Dove inserisci lo spinotto dell'audio lì, non c'è, si è rotto. Per il resto è perfetto. Ah, vero? Sì, l'ho sistemato, sì. Ho messo Windows 10. Tutto pulito vento, la pasta di raffreddamento, CPU, perfetto. Ho cambiato la tastiera. Sì, ho visto. Ho cambiato il lettore DVD. Ma va bene, va bene. Ora più 3. Cappa, è bello, sì. L'altro giorno ho saldato il PL, cioè ho saldato quell'affare dentro il Rosmed, ma non sono bravo io a saldare, perché mi ci stava un po' girando, mi ci stava. Ma tu, passione ci vuole, a me già piace saldare, cavolo. Mi piace saldare. E vabbè, poi la vista è quella che è, comunque io uso gli occhiali e anche la lente, per avere più vista, ecco, da. Aiuta molto, altrimenti altrimenti tu non ci riuscivi. Tu quanti hai usato i connettori, quelli del telefono? Quelli per caricare il telefono? Ma questi sono difficili a saldare. Io ho quel problema lì, ci ho avuto, le ho saldato così, ma cavolo, che c'è un rosmetro minoreddo, ma segna che è una meraviglia. E c'ho questo qua, nuovo, l'SX200, ho pagato 90 euro. C'è un po'. È bello quello che incrociati, quello lì c'hai, no? No, sì, è bello, ma preferisco più questo qua, funziona bene, perfetto. Cappa. Oh, ma cazzo il cellulare mi sto prendendo il biglia, un raio. Hai sentito suonare lui? Sì. Ti proprio inteso. Però io ce l'ho sempre silenzioso. Col vibro, là. Se tu mi mandi un messaggio c'è il vibro. Ah vai, è un vibratore. Guarda, non proprio mi buccia che mi vibra la gugliuppa. Volendo lo posso mettere anch'io, ma no, mi piace. Ma a me il suono è fastidioso, no. Infatti Maria mi incazza, uno manda messaggi, mette mi piace su Facebook, fastidioso, è una cosa di fastidio. Poi ciao cra. Torino, Petitella. Ma vai, tu mai Claudio, cazzo. Mai indovina chi sono. Uè, vabbè. Ah, ma già ti ho compreso, cazzo. E ora? Ciao. Vabbè, Tony, fate l'operazione. A voglia, però ancora sono indolenzito, ragazzi. Vabbè. È come al dente, no? Quando c'è mal di dente, nel dente ti rimane per un po'. Vabbè, quella è una cosa diversa, comunque. C'è anche quello fastidioso, va. Vedi, brutto, con questa schiena, questa parola tutta... dove è più su adesso, me? La schiena dorsale. Vorrei mangiare con Tarruccio. La miglior cosa è operarsi, basta. Io sono troppo contento perché non me ne sono neanche accorto. Agito, ma l'anestesia mi sta facendo? Troppo, a Giuseppe Ducci, posso passare per me, 2-3 secondi. Ma ne c'è mando, sì, tutto fatto, io camera. Beh. Bello così, bello. Ma magari anche riposato 4 ore, buoni, 2 ore, quanti avrei durato? Un'ora anestesia, sotto i fermi, un'ora, sono 2 ore. Ah, ti ho svegliato oro? Sì. Però che non sentivo Antonio. E io sì, tutto mezzo di Galiada. Tutto fatto la compagnia perché non è in camera. Bubu, aspetta oro. Ti giuro, per me, 2-3 secondi, chiudo gli occhi e riaprirli. Lo so, è anestesia, totale. Sì, anestesia generale. Ah, generale, ascolta a me, ma ti ho fatto un bel trappo, un bel taglio, cioè. No, in mezzo alla schiena sui 4 centimetri. Ah, piccolino allora. Ti hanno messo qualcosa? I punti perché spariscono da soli, ti assorbono. Sì, ma ti hanno messo qualche placca? No, tolta soltanto il coso, l'ernia e più hanno raschiato un po' perché c'erano già 6 anni, si era tutta calcificata nella spina dorsale e ci hanno messo un po' per quello. Adesso dovevi stare a riposo? Mi è dato un mese per adesso a casa a riposo, pagato al 100%. Forse non lo sto facendo, le minime cose indispensabili e basta, e poi sono sempre a letto. Lo so, pensi tipo casse d'acqua, non devi biliarmi. Lo stiamo guidando, sì. No, non ho capito, stai? Stai guidando? All'inizio sì, un pochettino, devo uscire per forza, piano piano. Però pare mi so finché dica cosa sotto, gatta, fai dai. È brutto, ma di che è brutto? Io ci soffro come un animale. Poi c'è un periodo di... non riuscivo a cazzarmi dal letto, veramente, non ce la facevo. Il dolore è forte. Poi vabbè, prendevo le bustine, poi me lo calmavano. Ma io ho fatto una visita, c'ho anche da un rigo l'ho fatta. Praticamente c'ho, adesso non mi ricordo, boh, c'è tutto lì, adesso... Guarda, l'altro giorno solo di cosa mi hanno detto. Vabbè, poi devo fare fisioterapia, lì a Conti, mai chiamato male, bastardi, mai. Infatti, ma siamo sicuri che facendo la fisioterapia mi fa? Sì, sicuro. Ma, è dubito. No, guarda, la miglior cosa è operarsi se ce l'hai, una bella risonanza magnetica. Niente, appena sono arrivato lì, diciamo l'appuntamento il giorno 15, subito ci hanno fatto tampone, prelievo di sangue, risonanza magnetica, lastra pure, e poi la domenica ci hanno ricoverato. E lunedì hanno operato Manuele, a me mi hanno sospeso perché toccava a me, ma ho detto un attimo, io sono anche cardiopatico, aspetta militare, mi hanno fatto l'ecografia la domani mattina, poi alle 11 aiuto e sono laboratorio, tutto fatto. Visto, mi devo così, no? Beh, ci vuoi stare bene, è così. Vabbè, ma sono rovinata quando ho giocato Vincello, con i sacchi di farina, sacchi di cemento, quasi rumacco. E la buia me la va, papà molla, cazzo, qua. Ascolta, la spesa è molto per operarti. La cosa? La spesa è molto per operarti. Ma io non ho speso niente, neanche un manuale. È un ospedale privato, che posso dire che è enorme, stanno anche ampliando ancora di più, c'è tutto dentro, c'è il supermercato, c'è la farmacia, c'è l'estetista, c'è il barbiere, c'è il bar, c'è tutto, è enorme, enorme, enorme. E niente, i soldi per il viaggio, per mangiare, per dormire qualche giorno, insomma, un po' di soldi giustamente me ne sono portati. Quindi, e cosa posso dire? Sì, perché noi siamo partiti due giorni prima, perché per partire in aereo c'era soltanto solo 15 ore, qui c'era la spera, come facevamo? Era un casino. Poi anche circa 50 km da Ravenna, e a Cotignola, praticamente Lugo, loro eravamo il mio vicino proprio a Lugo, proprio l'ospedale, e praticamente erano 700 metri, fatti il conto, dall'ospedale. C'è una fatta a piedi pian piano con la luce, la calendare, tutta la media che vira. Ci siamo divertiti, ecco Manuele. Io ripeto, non mi capiterà mai più. Ne avevo tre erne, una me l'avevo fatta, la grossa da un fastidio. L'altra sono piccolina, ma se domani tu lo sei cresce, mi auguro di no. Ci vado un po' volentieri, mi opera. Avanti Antonio. Speriamo. Speriamo bene, là, piano piano. Vabbè, l'unica cosa che costa è il viaggio, alla fine poi per operarsi no, non costa niente. Però se uno deve andare a mettersi a posto, cioè, deve farlo, deve farlo. Beh, io ripeto, per questa cosa, per la salute su che non riguardo, non mi frega niente quello che ho speso. Ti posso dire, se vuoi stare bene, un po' di su se devi portare. Quindi, io in verità sono soddisfatto. Per quello non posso dire niente. Ci siamo divertiti. Poi tra il giorno forte che dovevo rivincere, c'erano dimesso il venerdì, dovevo ripartire, ma con la coincidenza e cosa, con questo tempo, un casino, sono arrivato all'aeroporto, era già tardi, c'è chi chiuso, siamo tornati nuovo a Milano e abbiamo dormito lì un giorno in più, abbiamo mangiato in più e poi sono partito con l'altro aereo, il primo che c'era alle 15.15 per Urbia, Costa Smeralda. E quindi siamo andati là. Chiamata Stefano, si è venuto a prenderci, ho andato alla stazione, poi la stazione di San Sesso Marevatti, grazie a Dio, e detto Gianni si è preso e ci ha portato a casa. Comunque, è stata una bella esperienza, diciamo, di viaggio a quella, a quell'altro, sacrificante. Mi auguro che la prossima volta un viaggio ci sarà, ma in miglior condizione, non per queste cose. Gabba, ma me si augura che non ci sia la prossima volta, che va tutto bene, che se traziantemi, un po' andare in chirurghi. È stato meglio andare a divertirsi in altri posti, no? Andare a... Vabbè, comunque, è passato quello. Cosa si può fare? Nulla. Ma io ti dirò, sinceramente, ancora, sono incredulo. Anche io ti mi convenne a operarmi. Mi sembra che tutto un sogno. Boh, tu mi tocco dietro la schiena, sì, già mi sono operato. Avanti, Luca. Ma, tramite il tuo medico, così, No. Io in varie ricerche mi hanno indicato questo dottore che poi tra l'altro ha operato anche il mio collega. È un dottore di... da parte di Milano, che viene soltanto una volta alla settimana almeno in visita, spendi 150 euro per la visita e tra l'altro lui, tutto lui fa davanti a te, chiama lì all'ospedale, dimmi la prenotazione per operarti o quanto. Quindi mi è arrivato un messaggio, porta i documenti, ripetitiva, guarda là, tu l'hai fatto. Perché non le fanno queste operazioni qua? Ma lo fanno, ma io non ti giuro, non mi fido, mio cugino non l'avevo rovinato, sia a Sassari che a Cagliari, poi è andato a Monza e gli ha detto ma che l'ha macellata così, questo si faceva 50 anni fa, a mio cugino non ha dato una bella pezzo di osso dietro, l'ho messo una placca a titanio, è la rovina del di prima. Che casino. La carità, vabbè, ce ne sono macellai, ce ne sono, e come? Vabbè, un casino. E prima tu un attimo vado in bagno, poi ci preparo anche di sulla mamma. Ehi, Alu, vai, vai. Beh, Tony, se Camillo ti arrivò bene. Ma, sono di sì. Aspetta, prova a vedere. 1, 2, 3, prova. Sì, 9, 20, 25, va bene, cavolo. 9, 5. E tu, a tu, questi lavori che stai facendo adesso, anche la bombola è pesante, vedi? Io, in 23 anni, motori di antincendio che pesano 120 kg, insomma, 80, sforzi oggi, sforzi domani, e fino la spinosale ci ha risentito. Bisogna stare attenti, non fare sforzi. Ma non la vedi la cosa, la gruletta? E come fai tu a mettere la gruletta, come dici tu? Allora, i motori di antincendio sono innanzitutto posti sotto la maggior parte delle scuole. Devi scendere la scala. Lì non ti vai a guardare lo sopra. Come ti vai? Fa a mano di tirarsi. Vabbè. Beh, non ce l'avete un qualcosa, cioè, di ingegnoso? No, siamo in due devo prenderlo, portalo sopra, metterlo in macchina, ricarica in macchina. Andrà a portarlo giù, stare, scaricarlo e lasciarlo lì. Quando è pronto vai di nuovo, lo prendi, lo metti in macchina, vai alla scuola, te lo carichi di nuovo, con le braccia, scendi giù e te lo piazzi. E allora, fa una cosa, Doni, fallo fare giovanotte. Purtroppo è il campo mio, capito? Ma io ormai sono già arrivato, dai, io quest'anno vado in pensione, ho già limitazioni di peso, non ne faccio più pesi. Quindi sono tranquillo e basta, faccio il lavoro degli altri, ormai le mie età sono arrivato, basta. Non ti conviene più, no, c'hai bidate, ma paghi che cose, fai bene. Beh, ormai sono arrivato e mi basta così. Niente, ne vuoi tu, a proposito, tutto ok? Noi? Allora chi? Io sono a posto pure. Sì, sono tutto ok. Tu dimmi una curiosità invece, tu. Dimmi. Io ho telefonato da una mommola, la dice chi le portava da qua. Mi ha dato il numero di telefono di questo cavolo egiziano, penso che sia la Corso Vittorio Emanuele. Ha detto che abitavo in questo posto qui, mi va e mi dice, vicino a Sorso. No, veramente io sono stato lì, sono a 2,5 km. Non a Sorso, insomma. Continuato con il palla, che fine, ti ascolta, ma quattro mi viene questa mombola. Dice, 30 euro, tieni il conto, la fa culo, Giuseppe. Ma di cosa, da quanto però? Da 10. Ah, chiama Giuseppe, chiama, latte dolce. Ma ho chiamato io quel vicino di casa, ti ascolta. Ma con la mamma, lo chiamo io, ho chiamato questo qua, di via San Francesco, con tuo padre. E mi ha preso 24 e mi ha piazzato. Chiappa, ma la gabbiglia che c'è, tanti macchi, so. E chi? Di Bacchizzani, dalle Bacchizzani è chiamato. Che cosa ne so, comunque mi hanno dato, boh. Ehi, la gabbiglia. Cazzo, 30 euro. Ci trovo un nuovo vicchio, se la pigliamela io, cazzo, che ne vuoi 30. Ma ammazzati. Noi non usciamo così fuori. Cioè, già usciamo, ma più di una bombola devi ordinare, se no non ci conviene, perché noi siamo dall'altra parte della città. Lo so, però giustamente, se uno abita qua non è colpa tua, no? Tu ti hai bisogno di una bombola. Io ripeto, ho detto che sono così, se non sono andato io, come al consulto, me l'avrei comprata io. Sì, ma appunto. Sì, la cicacca ladruncolo, devo essere. Io sempre, in 11 anni che abito qui, sono sempre andato io, non sono comprato io. Purtroppo in questo periodo non posso, e quindi ho approfittato, all'altro mese, grazie a Dio, quando si finirà, all'altro mese, cazzo mi dura 5-6 mesi la mogola a me, perché ho cucinato al forno. Lo so, purtroppo non ve la vado a farlo. Allora. Salta Antonio di Gallura, quanto sono stanchissimo. Un po' quando appoggio la schiena, mamma mia, oggi la dottoressa mi ha medicato. Ma tu, l'altra settimana vieni, ti tolgo tutto. E butti già, vado via da soli. Ma andare, comunque me lo copro lo stesso, lo proteggo. Scappa, fai così. Oh, mamma prendere un po' caldo di tigre, un po' giù, ero. Mamma mia. Questa cosa a cavolo ci avevo. Adesso dammi stamattina mi sono diciamo, un pochettino più di forza. Ero tutto canto rincoglionito che c'è di. Perché tu mangi troppo e bevi troppo? No, non sto bevendo, no. Sono bevendo in onda. Se andiamo alla discoteca come si affiscia, Ali. No, io. Lascia da quando sono senza fare festa qua dentro. Da quando a Capodanno che avevo bombato voce, non ho acceso più niente. Vabbè. Va bene, dai. Vabbè, è Luca, è entrato, Luca. Luca. Non c'è nessuna frequenza. Dite che verrà burotto. Ma mi è arrivato, ho trovato un messaggio a coso Gianni, capi due. E niente, tra un passaggio e l'altro, dammi già, guardi, se proprio, quasi quasi, dopo che poi si cucina, accendo, se ci siete ci facciamo due chiacchiere, e acceso per vedere se c'è anche lui. E invece niente, sta ancora mangiando, non lo so. Perché non è sempre che accendo, ogni tanto lo riesco a televisione, poi mica se sei sdraiato, guardando la TV, perché il baracchino c'è un fianco, e mi viene male, capito? Se devi sedere sul letto io per parlare al baracchino e quando mi curco non ha proprio l'intenzione di essere il baracchino. Mi stavano dicendo poco fa, mi sembra che era un canale Alfa, non mi ricordo adesso, e senti che anche d'uno che era fin da burotto, io non c'ero. Il giorno che mi rompo bene bene le scatole, tanto l'ho già pizzicato, lo so che è Edo, le vado sotto, ci sono un campanello di casa e poi vediamo, poi ridiamo, perché adesso mi sono rotto le scatole, il giorno che me ne stufo ho fatto davvero, tanto io non ho niente da perdere. Io molto gentilmente lo dico a chi te lo devo dire, di smetterla e basta. Sì, ma c'è la mancella o mica sesso? Che è un ghiaccio importante. Se non viene una cogliata, non vede, ma da niente, è un ghiaccio importante. Mi danno detto che comincia già un chissà cosa, a punto importante a rompere le scatole. Beh, e chi è, si può sapere? Io già lo so bucare. Io ho quasi la certezza, al 100%. E più o meno dove è che zona? Adesso te lo dico. C'è bisogno di... Adesso te lo dico, boh. Te lo dico... come si dice, invia messaggio. Mandalo su Messenger. Dai, mandalo su Messenger. Luca, sei entrato. Attenzione, cingomma. Non vedo nessuno più. Poi che porco, che c'è sul 10 che vuole entrare, dai. Adesso te lo mando. Eia. Va, poi che porco, non vedo nessuno. Mica te l'ho mandato, Non ho ricevuto niente ancora. Eia, te l'ho mandato via me, via Gozo. C'è una fotografia così. C'è una fotografia, buongiorno, no? Aspetta. Vediamo qui. Ecco qua. Messaggio vocale mandato. Sì, ma non ho il messaggio vocale, ascoltalo. Ehi dai, aspetta un altro che ascolto. Oh, altro. Ehi, ha sentito, hai? Altro. Ehi. Ma siete sicuri? Sì. Ma mi sembra strano. Ma non andava bene però così, eh. Ma mi sembra strano, non ho più sentito io. Lo so, però gente che si è puntata da sotto. Ma hai detto che è il giorno che esco io da qua, con che cosa so, lo bizzicheggio nel fatto e verrà da finito il buono importante. Io dico solo una cosa, che i segnali sono relativi, capito? vabbè. Tanto lo gioco un dia. Ora preso il sicuro al 100%, ne va da sotto la persona, stacca le pietre, se vede che devo fare lo scala, allora è lui. Punto. No, per un segnale X. Arriva così, arriva colà. A me mi hanno riferito che gliel'hanno fatto. Ed è così. Ma non so cosa dirti. Io non mi arrabbio, non lo potrei mai fare, quindi anche se hai un segnale che è forte, non posso mai decifrare chi è l'altra parte. L'unico è avere in macchina il baracchino, togliere l'antenna, girare fino quando arriva il segnale forte. Allora potrei dire sì, è tizio. Insomma, stasera con nessuno, alla luce che è già stesso, il baracchino gatta, carità, me ne lascia la gara, mi sta bevendo tutto la notte. Ti ho mandato un altro messaggio. Aspetta, riguardo. Punto di domanda. E quindi avete più o meno dedotto da quello? Sì, più o meno è così. Più o meno è così. Capito? Sì, ma potrebbe essere il 50%, andando al massimo. È l'altro 50%. L'unico è che col baracchino senza antenna in macchina. Solo quello puoi stabilire, non puoi dire altrettanto. Per queste poche coincidenze, capito? Ma lo vedremo. Cappa, se sono frutti fioriranno. Cappa, cappa, oi oi oi. Allora stasera sono un po' spenti la gente, non ha ni gana. Forse perché lunedì sono stanchi. Sì, comunque lunedì è sempre un po' così, Calda. E io tra poco ci metto a letto, lei mi guarda la TV, allora mi riposo un po'. Allora, Emi, dopo cosa cosa posso? Non posso una bella doccia, ma qua domani sono più pronto. Ma non ti conviene fare la roba la mattina presto appena ti alzi? Lo stesso, quella vai domani a mangiare, quella vai a fare, cioè a me non entra a letto più pulito. Ma il fattore è questo, se tu te la fai adesso, domani se la notte tu sudi e domani non sei mai pulito come il giorno prima. Se ce la fai appena ti alzi, se vai dal pulito è fresco, capito? Già c'ha ragione, già. Beh, io non voglio nessuno, tu faccia di te. Insomma, entro un po' la voce, entro con nessuno, solo a te posso trovare. Capa, poco fa già c'era gente. Ho entrato io. Vabbè, non fuori frequenza, però già c'era. Ma se entro presto io devo preparare la casa, i cani, quella, quell'altro, cucinare, capito? Cioè, non posso dedicarmi al baracchino quando ho cose da fare. Avrò avuto la signora, è diverso. No, vabbè, hai ragione, non è che... vabbè, a volte capita che non c'è nessuno e cosa vuoi va? Beh, e la mia radio se per me ti arriva. A voi già arrivi, beh. La mi scavi sempre per Claudio. Sì, è perfetta la tua. Volte mi scavi sempre per Claudio. Molte volte, no, beh, lui già arriva un po' diversamente. Molte volte abbiamo impattono, perché c'è il timer, pure il timer, +3 come ti si chiama, +2, non me lo ricordo, Sidiric, non mi ricordo com'è il tuo. È il carne super Sidiric, quello nero. È bello, io ho avuto 3B, +3B, bellissimo. Quello normale? No, da cosa, da tavolo. Tu hai più due che era palmare Celestino, non ricordo. Io ci ho avuto Tarmer +3B. Capo. Io ho l'ho andato via perché ho visto questo superiore come modulazione. E mi piace. Un bel. Poi tra l'altro mi sento anche in cuffie. Bellissimo, va bene. Vabbè, non siamo molti a avere una radio così da in frequenza. Sì, come quando apri fa... Il rumore perché è molto amplificato, è sensibile, come schiacci piano piano... Le lamelle sono. Cappa. Sì, lo sento anch'io quando schiaccio. Sì. Ah, già, sono belli, cavolo, belli, i microfoni. E costano? Io questo non lo farei mai. se domani vedo, vedo tutto. Però sono singolo, il microfono piccolo, la Galassi sposa bene, ya. È una bomba, Sì, di chi anno è? Che cosa? Il Galassi? No, quello tuo, a parte il Galassi. Ma il microfono? Ehi. No, lo so, cosa avrà peso 25-30 anni, boh. Super giù, sai, ma forse è un microfono degli anni 70, me. Non lo so con esattezza, non lo ricordo. So che è in buone condizioni, perfetto. E cosa posso dire? Intanto. Il Galassi di Canoe. Non lo so neanche cosa, perché l'ho preso da un ragazzo di noi, ma è di Cagliari. Me l'ha spedito e domani mi è arrivato. Ho capito. Oh, chissà a Cagliari se ce ne sono CB, beh. Se guarda, sono 278 canali, CV doppio, AM, FM, USB, RSB, 10 kHz, Rosmetro, Wattmetro, Bip, Roger Bip, ecco, antidisturbo, bla bla bla bla bla. Già lo conosco, ce l'ho avuto pure io. Due smitter, il coso del canale e le frequenze di vetro, 27075. E poi c'è TX, CW, FM, AM, USB, RSB, sono i LED, in senso acceso su AM in rosso. Gli smitter sono la lampadina piccolina azzurra sotto, che fa la circonferenza azzurrina, mezza ora. Bello sì. Guarda, ce l'ho avuto anche io, ce l'ho avuto quello lì. La stanchezza, anche se lo sto lavorando, guarda, sono stanco, non lo so. Tutto con usare questa fascia elastica con le stecche tutto il giorno e me la tolgo solo la notte. Quello mi protegge di più ancora. E fai bene, fai bene. Solo di notte. Cioè, ma piano piano, non è che... A proposito, Emanuele come sta? Sta un po' meglio, sì. A me, rispetto a prima, sì. A 1000 per 1000 me l'ha già detto. Però anche lui farà male. Beh, lui ha avuto 3 tagli, capito? Uno a fianco gli ha messo la gabbietta. 2 dietro, molto il doppio dei miei tagli. Gli hanno messo le placche al titanio con le viti. Sì, sì, me la mento, ma poverino, camminava parecchio male. Tu pensa che lui ha molto più messo male di me. Poverino, è stato 4 ore senza l'apparatura, io ora lui 4 ore. Poveraccio, me lo ricordo quando l'ho visto, camminava un po' strano. Ma è meglio che sia andata bene, Marco Borvedo cammina un poco più bene. Poi c'è anche fratello, stavamo parlando, dice che non ci voleva andare. E ho detto lui che ci va anche tuo padrino, vacci, che fai una cosa bella della tua vita. L'ha convinto, l'ho convinto anch'io, io e Manuel siamo insieme, dai, ci divertiamo. Per da solo sarebbe partito. Abbiamo approfittato, ho fatto già il biglietto, ho fatto mille biglietti, ci ha fatto Manuel, io. Sì, ma la Pepina cosa voleva fare? Una soluzione ce la doveva avere. Cioè, come sta di morirà per morire il drone, cioè la Pepina devi, cioè, devi prendere una decisione se vuoi continuare a camminare bene. Beh, non si può trascurare. Io, Isabella, non mi fido. Quindi, l'ho sempre detto, domani se io avrò il coraggio di andare a operarmi vado fuori, perché qua no. Va tu Bettoni. C'è molta gente qua in Sardegna che è andata a operarsi e praticamente non è, diciamo, in perfette ultime condizioni come dovrebbe essere. Molta gente l'ha rovinato. Ci vuole gente competente, ci vuole. Io sono stato uno con la contrapalla. Quindi, sì, buona brianza era questo dottore. Dottor Tre Soldi della Brianza. E quando si mette il B&B addirittura lì, addirittura c'è andata una suite. E la signora ci ha detto, sai quanti sardi vengono qua per il dottor Tre Soldi? E quando sono andato all'ospedale, ti opera il dottor Tre Soldi, ho detto sì, molto bravo. A parte quello, tutte le persone che ho conosciuto ho chiesto di chi mi operava e lo conoscevano, chi ha trovato il parente, chi la sorella, chi il fratello, è una persona molto esperta, diciamo, bravissimo. Meno male veramente, va. Non è, non, se no ti guardane, se ti guardane hai messo. Meglio che una persona molto, molto valida che l'abbia fatto, non la chissi GP tu. Ma qua è santo a fare che non fanno niente, per carità. Vabbè dai, niente, ho passato qui un pochettino perché sennò qua si innesca, vedi? Così già mi siete lo stesso. A voglia, benissimo. Benissimo, Tony. Ok. Sì, anche io lo schiaccio di tutto, sento. Tuc, tuc, buc. Tuc, tuc, tuc. Chi è? Good doc, va. Chi è? Avanti, sciacquami. Aiuto, con la piccheriola in mano, chi c'è, chi c'è? Aiuto, sono fermo, Luca. Sì, non c'è nessuno. Che vergogna. Lo so, oggi non ha ne gana, no. Io esce, allora, si sono fatte le 21.32. Signori miei, io me ne vado tutto a quarti, spengo tutto, mi guardo la televisione, mi metto a letto, mi spoglio. Ok, voglio sdraiarmi, perché sarei seduto, non è che sto fatto bene. Ok, Anto, dai, grazie per il questo. Spero che la prossima volta che accendo ce l'ho un po' prima, c'è troppo di amici. Qualche passaggio in più me lo farò. Ok, salutami Correa, alle prossimine. Ciao ciao a tutti. Ciao Tony, ciao ciao a tutti quanti da Recci di Bocco, ciao ciao a tutti. Eventuali ascoltatori, orecchie pelose, ciao ciao. Ciao ciao.